Avventurieri, avete riottenuto le chiavi. Ma ricordate, la leggerezza di un gesto può costarvi caro. È il momento di proteggerle meglio.